Ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Terza puntata. Il signor Sapsi. Qualora si assuma l'asino a tipico esempio di compiaciuta stupidità e presunzione, una consuetudine forse, come alcune altre, più convenzionale che corretta, allora il più genuino asino di Cloisterham è Thomas Sapsi, banditore d'asta. Sapsi veste tale quale il decano. Per sbaglio ha ricevuto degli inchini destinati al decano e per strada gli si sono persino rivolti con l'appellativo di Sua Eminenza, supponendo che si trattasse del vescovo arrivato inaspettatamente senza il cappellano. Sapsi di questo va molto fiero, come pure della sua voce e del suo stile. Addirittura dal podio, nella vendita di proprietà terriere, ha sperimentato un'intonazione vagamente salmodiante per rendersi più simile a quello che secondo lui è l'articolo genuinamente ecclesiastico. Allo stesso modo, nel concludere un'asta pubblica, Sapsi ha l'aria di impartire una benedizione ai sensali riuniti, con una dignità che supera di gran lunga quella del vero decano. Un gentiluomo modesto e per bene. La sua casa si trova sul corso, esattamente di fronte alla casa delle monache. È più o meno dello stesso periodo, rimodernata irregolarmente qua e là, man mano che generazioni sempre più decadenti scoprivano sempre più spesso di preferire l'aria e la luce alle febbri malariche e alla peste. Sapsi siede nel suo smorto salotto al pianterreno che dà sul cortile lastricato dietro la casa, confinante con il giardino chiuso da un recinto. Ha una bottiglia di porto sul tavolo davanti al fuoco, una primizia di lusso il fuoco, ma piacevole nella gelida serata autunnale, e si trova tipicamente in compagnia del suo ritratto, della sua pendola a carica settimanale e del suo barometro. Tipicamente, perché Sapsi sarebbe incline a opporre se stesso al genere umano, il suo barometro alla meteorologia e la sua pendola al tempo. Vicino a lui, sul tavolo, ci sono uno scrittoio e del materiale per scrivere. Guardando di sfuggita un foglietto manoscritto, Sapsi lo legge sottovoce con aria solenne e poi, percorrendo la stanza a passi lenti, con i pollici infilati nelle ascelle del panciotto, lo ripete a memoria, con grande dignità, ma tra sé e sé a voce bassa, tanto che l'unica parola udibile risulta essere Etelinda. Su un vassoio appoggiato sul tavolo ci sono tre lindi bicchieri da vino. All'annuncio della cameriera è arrivato il signor Jasper, signore. Sapsi accompagna a farlo accomodare con un gesto della mano e recluta due bicchieri prelevandoli dalla fila. Lieto di vedervi, signore. Devo congratularmi con me stesso perché ho l'onore di ricevervi per la prima volta. In questo modo Sapsi fa gli onori di casa. Siete molto buono, l'onore e il compiacimento sono miei. Siete gentile a dir questo, signore, ma vi assicuro che è una soddisfazione per me ricevervi nella mia umile casa, una cosa che non direi a chiunque. Maestosità accompagna le parole di Sapsi, come lasciando intendere che la frase significhi: anche se non vi riesce difficile credere che la vostra compagnia possa dar soddisfazione a un uomo come me, tuttavia è proprio così. È da un po' che desidero fare la vostra conoscenza, signor Sapsi. E io, signore, è da un pezzo che conosco la vostra reputazione di uomo di gusto. Lasciate che vi riempia il bicchiere. Brindo a voi, signore, dice riempendosi il suo. Quando i francesi passeranno il mare, noi a Dover li andremo ad incontrare. Questo era stato un brindisi patriottico al tempo dell'infanzia di Sapsi, il quale è pertanto fermamente convinto della sua adattabilità a qualunque epoca successiva. Voi lo sapete, signore, nota Jasper, mentre osserva sorridendo il banditore che stende le gambe davanti al fuoco, di essere uno che conosce il mondo. Ebbene, signore, risponde ridacchiando, penso di conoscerlo un po'. La vostra fama di conoscitore mi ha sempre interessato e stupito, suscitandomi il desiderio di incontrarvi, perché Cloisterham è piccola. Io stesso, che mi ci trovo ingabbiato, non so niente del mondo esterno e questo luogo lo sento davvero molto angusto. Anche se non sono stato in terra straniera, giovanotto, inizia Sapsi e poi si ferma. Mi scusate se vi chiamo giovanotto, signor Jasper, ma certamente. Anche se non sono stato in terra straniera, giovanotto, la terra straniera è venuta da me. È venuta sotto forma di affari e io ne ho approfittato per migliorarmi. Mettiamo che faccia l'inventario o compili un catalogo. Vedo un orologio francese, in vita mia non l'ho mai visto, ma immediatamente gli metto sopra il dito e dico Parigi. Vedo tazze e piattini di fabbricazione cinese, anche loro dei perfetti estranei. Anche a loro metto il dito sopra e all'istante dico Pechino, Nanchino e Canton. È lo stesso con il Giappone, con l'Egitto, col bambù e il legno di sandalo delle Indie orientali. A tutti gli metto sopra il dito. Il dito mi è capitato di metterlo sopra il Polo Nord e dire lancia di fabbricazione esquimese per mezza pinta di cherry bianco. Che modo stupefacente di conoscere uomini e cose. Menziono questo, signore, riprende Sapsi con indicibile compiacimento, perché, come dico io, vantarti di ciò che sei non ti serve a niente. Fai vedere invece come ci sei arrivato, perché così lo dimostri. Molto interessante. Dovevamo parlare della defunta signora Sapsi. Esatto, signore. Visto che il monumento funebre della signora Sapsi ha avuto tutto il tempo di assestarsi e asciugarsi, fatemi sentire il vostro parere da uomo di gusto sull'epitaffio che, come ho già detto, non senza una certa febbrile concentrazione, ho composto. Ecco, la disposizione dei righi va seguita con gli occhi, il contenuto con la mente. Jasper, assentendo, guarda e legge quanto segue. Etelinda, moglie reverente di Thomas Sapsi, banditore, perito, agente immobiliare, eccetera, di questa città, la cui conoscenza del mondo, pur se discretamente ampia, mai lo portò a conoscere uno spirito più incline a venerarlo. Forestiero, fermati e chiedi a te stesso, sei in grado di fare altrettanto? Se non lo sei, arrossisci e allontanati. Sapsi, che si è alzato e si è messo con le spalle al fuoco, intenzionato ad osservare l'effetto dei suoi versi sull'espressione di un uomo di gusto, si trova pertanto con la faccia rivolta verso la porta quando la cameriera, ricomparendo, annuncia «È arrivato Durdles, signore». Prontamente recluta e preleva il terzo bicchiere e risponde «Fallo entrare». «Ammirevole», dice Jasper, restituendo il foglio. «Approvate, signore». Impossibile non approvare. Sensazionale, tipico, conclusivo. Il banditore inclina la testa, come uno che accetti il dovuto e rilasci la ricevuta, e invita il sopraggiunto Durdles a vuotare il bicchiere di vino che gli porge per riscaldarsi. Durdles è uno scalpellino, attivo principalmente nel ramo di lapidi, tombe, monumenti funebri, in tutto e per tutto del loro stesso colore. È l'uomo più conosciuto di Cloisterham. È lo spirito libero del luogo. È proclamato a gran voce un fantastico artigiano, il che, per quanto si sa, può anche essere vero, dato che non lavora mai. È un fantastico ubriacone, il che è noto a tutti. Della cripta della cattedrale ne sa più di qualsiasi autorità vivente e forse anche di qualsiasi autorità defunta. Si dice che l'intimità di questa conoscenza sia iniziata con la sua abitudine di rinchiudersi in quel luogo segreto per sottrarsi ai monelli di Cloisterham e smaltire i fumi dell'alcol dormendo. Infatti, ha libero accesso alla cattedrale come responsabile delle riparazioni ordinarie. Sia come sia, ne sa molto, e nella demolizione di ingombranti pezzi di muro, contrafforte e pavimento, ha visto cose strane. Spesso parla di sé in terza persona, forse perché è un po' incerto della sua identità quando narra, o forse perché adotta con imparzialità la nomenclatura in uso a Cloisterham per personaggi di chiara fama. Sicché dirà, accennando alle sue strane visioni, «Durdles, il compare l'ha beccato», riferendosi a un potente di rango sepolto in tempi antichi, sfondandogli la bara col piccone. Lui a Durdles l'ha guardato come per dire «È Durdles il tuo nome? Buon uomo, quanto diavolo ci hai messo a trovarmi?» E poi si è sfatto in polvere. Con un regolo lungo due piedi sempre in tasca e un martello da muratore praticamente sempre in mano, Durdles gira e rigira intorno alla cattedrale, battendo e picchiettando. E tutte le volte che dice a Top «Top, qua dentro ce ne sta un altro», Top lo annuncia al decano, come una scoperta comprovata. Con indosso un vestito di ruvida flanella, con bottoni d'osso, un fazzoletto giallo con l'orlo sudicio, un vecchio cappello nero stinto e scarpe coi lacci del colore del suo pietroso mestiere, Durdles conduce una vita nebulosa, zingaresca, portandosi dietro il pranzo in un fagotto e sedendosi su ogni sorta di tombe a consumarlo. Il pranzo di Durdles è diventato una vera e propria istituzione, non solo perché non compare mai in pubblico senza, ma anche per essere stato, in certe note occasioni, preso in custodia insieme a Durdles, ubriaco e inabile, ed esibito come reperto di fronte ai magistrati in municipio. Queste occasioni, a dire il vero, sono state poche e sporadiche, non essendo mai Durdles del tutto ubriaco, né mai del tutto sobrio. Per il resto, è un vecchio scapolo e vive in un antiquato buco di casa che non è mai stata finita, presumibilmente tirata su fino allo stato attuale con pietre rubate dalle mura della città. Questa dimora ha un accesso cosparso da uno spesso strato di scaglie di pietra, somigliante a un bosco pietrificato di lapidi, urne, volute e colonne spezzate nei più svariati stati scultorei. Qui due lavoranti incessantemente scalpellano, mentre altri due lavoranti, uno di fronte all'altro, incessantemente segano pietre, tuffandosi ed emergendo dalla protezione del garritte con la stessa regolarità di automi, emblemi del tempo e della morte. A Durdles, quando ha vuotato il suo bicchiere di porto, Sapsi affida il prezioso sforzo della sua musa. Durdles, del tutto insensibile, tira fuori il regolo e in tutta calma misura i righi, sporcandoli di graniglia. «Questo va sul monumento, giusto, signor Sapsi?» «L'epitaffio, sì». Sapsi rimane in attesa dell'effetto su una mente ordinaria. «Andranno giù di un niente», dice Durdles. «Servo vostro, signor Jasper. Spero di trovarvi bene». «E voi come state, Durdles?» «Mi sono preso i tombatismi, ma questo è naturale». «Volete dire reumatismi», dice Sapsi in tono tagliente. È irritato per la totale indifferenza con cui ha accolto la sua composizione. «Niente affatto. Voglio dire tombatismi, che sono tutta un'altra cosa. Il signor Jasper lo sa che cos'è che vuol dire Durdles. Ci si gela in quel posto», concorda Jasper con un brivido di ripugnanza. E se vi gelate voi sul presbiterio con tutto quel fiato dei vivi che vi fuma intorno, Durdles ve lo lascia giudicare a voi il gelo che sente lui giù nella cripta in mezzo all'umido che vien su dalla terra e al fiato morto dei vecchi compari, replica quell'individuo. Ci metto mano subito, signor Sapsi. Sapsi, con l'ansia di un autore impaziente di pubblicare, risponde che prima gli esce di mano, meglio è. Allora sarà bene che mi date la chiave, dice Durdles. Ma signor mio, mica va messo dentro la tomba. Lo sa Durdles dove va messo? Nessuno meglio di lui, signor Sapsi. Chiedetelo a chi vi pare qui a Cloisterham, se Durdles sa fare il suo lavoro. Sapsi si alza, prende una chiave da un cassetto, apre una cassaforte di ferro inserita nel muro e ne prende un'altra chiave. Quando Durdles mette un tocco qua e là o rifinisce il suo lavoro, non importa dove, dentro o fuori, a Durdles gli piace guardare il suo lavoro torno per essere sicuro che il suo lavoro gli rende merito, spiega Durdles caparbiamente. Essendo massiccia la chiave che il vedovo affranto gli porge, lui infila il regolo in un'apposita tasca laterale dei pantaloni di flanella. Ostentatamente si apre la giacca e spalanca l'apertura di un'ampia tasca interna prima di prendere la chiave e riporla in quella custodia. «Ma Durdles!» esclama Jasper, assistendo divertito. «Siete una miniera di tasche!» «E dentro ci porto anche un bel po' di peso, signor Jasper. Sentite queste!» tirando fuori altre due grosse chiavi. «Passatemi anche quella del signor Sapsi. Di sicuro questa pesa più delle altre due. Le troverete più o meno pesanti uguali, penso. Sono chiavi di tombe tutte quante e tutte quante aprono il lavoro di Durdles. Durdles le tiene quasi sempre lui le chiavi del suo lavoro. Non è che vengono usate spesso. A proposito, viene in mente a Jasper di dire mentre esamina distrattamente le chiavi. È un bel po' che ve lo volevo chiedere, ma me ne sono sempre scordato. Lo sapete, no, che certe volte vi chiamano pietraio Durdles? Cloisterham mi conosce come Durdles, signor Jasper. Certo, questo lo so, ma i ragazzini a volte... Oh, se gli date retta a quei piccoli diavoli. Durdles interrompe bruscamente. No, non gli do retta più di voi, ma l'altro giorno discutevamo col coro se pietraio sta per Pietro, facendo tintinnare una chiave contro l'altra. Oppure se sta per Piero, facendo tintinnare le chiavi dopo averle scambiate. Oppure se il nome viene dal vostro mestiere, come stanno i fatti? Jasper soppesa le tre chiavi nella mano, alza la testa che finora è rimasta indolentemente china verso il fuoco e restituisce le chiavi a Durdles con una faccia franca e amichevole. Ma il pietraio è anche un tipo brusco e quel suo stato nebuloso è sempre uno stato imprevedibile, fortemente conscio della sua dignità e incline a offendersi. Lascia cadere le sue due chiavi l'una dopo l'altra nella tasca che abbottona, prende il pranzo dallo schienale della sedia su cui l'ha appeso entrando, distribuisce il peso che si porta dietro legando la terza chiave al fagotto come fosse uno struzzo e gradisse un pranzo freddo a base di ferro ed esce dalla stanza senza degnarsi di rispondere con una sola parola. Sapsi propone poi una partita a backgammon che, speziata e resa più gustosa dalla sua conversazione e conclusa da una cena di arrosto freddo e verdura, inganna la sera durata fino a un'ora abbastanza tarda. Ma siccome la saggezza di Sapsi nell'enunciazione ai mortali segue lo stile prolisso piuttosto che quello epigrammatico, essa non si è esaurita neppure allora. Ma il suo ospite accenna che tornerà in futuro a procurarsi ancora un po' di quella merce preziosa e Sapsi, per ora, lo lascia andare a riflettere sulla puntata che si porta via. Thank you.